Ciao a tutti e tutte, siamo Silly e Giordano e oggi vi proponiamo la nostra lista di canzoncelle carine carine, vero Giardi? Sì mamma! Sì! Perfetto, ok, iniziamo con un bel super telegattone! TV Sorrisi e Canzoni presenta Super Classifica Show. Sono il telegattone, ma io per Pippo Mike e Corrado sono meglio di un corredo. Per l'attore ed il cantante sono un premio inebriante. Ma Barbara Streisand ed anche Frank Sinatra sono una mia trovata. Senza me Claudio Cecchetto non sarebbe che un pupetto. Ma come tutti i gatti vivo sopra i tetti, appoggiato all'antenna centrale, io controllo la TV locale. Sono il gatto sul tetto che ascolta, tutto come fosse la prima volta, con la faccia TV. Questi baffi all'insù, gli occhi più blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, di Paul Newman. Se vi piace, chiamatemi Oscar. Sono il telegattone, ma è il mio debole più forte di lasciarmi far la corte dal cantante più affermato che con me viene premiato. Ma Mina, Lucio Dalla e Battisti, qui con me non corro rischi. Gli artisti sono gatti, sì, ma gatti da legare. Ma come tutti i gatti vivo sopra i tetti, appoggiato all'antenna centrale, io controllo la TV locale. Sono il gatto sul tetto che ascolta, tutto come fosse la prima volta, con la faccia TV. Questi baffi all'insù, gli occhi più di Paul Newman. Se vi piace, chiamatemi Oscar. Ed eccoci ritornati. Amore di mamma, che cosa mettiamo adesso? Il cacciapo felice. Facciata. Alla carota tu stai sotto cerca, se vieni fuori ti chiudo in cella. Il cacciofo che dice alla tirava, la lotta tirava. Testa di rapa. A tutti più grossa donna mangiata. Mi chiedo scusa se l'ho già detto. Non sono cattivo, ho bisogno di affetto. Non sono cattivo, ho bisogno di affetto. E adesso abbiamo scelto una bella canzone, quella di Totaro. Vai amore, che cosa c'è adesso? Catarinello. Ma che modello è? Cavolo, questo là. Ma che modello è? Bye. Dai, amore, che cosa mettiamo adesso? Bagno. Ed ora una delle verdure di Silvia. Cinciaolin, vai. Cinciaolin. Sapete cosa fanno quattro galline al Polo Nord? Il circolo pollale altico. Finito tempo di riso. Ora, tempo di Baby Show! Pocoyo, vai. Adesso sentiamo Pocoyo. Adesso sentiamo Pocoyo. Scusate, un momento di pausa per cercare la prossima canzone che non troviamo e noi mettiamo questa. Vai. Filmation Ghostbuster. chiappa fantasmi. Chiappa fantasmi. Grandpa, Peppa, Uncle Grandpa. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Quasi mi avete rotto le orecchie. Ma dillo, quasi quasi. Bonk. Choppy Chip. Quale, scusa? Choppy Chip, ma dov'è? Eccolo là, prendilo. Questo? Sì, proprio quello. Vado, eh. Mamma mia, che fatica, sì. He's on the shape, he's on the shape. Even mocks about with those who cannot fleet. Keep it in mind, he's one of a kind. Oh, life's a treat with Shaun the Sheep. He's Shaun the Sheep. He's Shaun the Sheep. He's Shaun the Sheep. He's Shaun the Sheep. He doesn't miss a trick or ever lose a beat. Perhaps one day you'll find a way to come and meet with Shaun the Sheep. Blu-paru. Dice un altro: figurati, ieri pomeriggio un vigile mi ha dato una multa perché camminavo sulle zebre. Incredibile, ma dove ti è capitato? Al giardino zoologico. Continuate a telefonare e continuate a scrivermi le vostre barzellette, così potrete rischiare di entrare nella prossima Hit Parade della barzelletta! Ciao! Vi prego, vi prego! Ok, adesso iniziamo a mettere un po' di cartoni animati seri, di quelli quando eravamo noi piccoli e quindi siamo diventati grandi. Vai, amore, Yattaman, metti! Yattaman! Severo, coraggioso e battagliero Yattaman. fuori c'è un brutto tempo. Ed ora Conan, il ragazzo del futuro. C'era una volta una città in quell'isola laggiù. C'era una via che passava di là, proprio dove vivi tu. C'era allegria, c'era felicità, ma la guerra è una follia. Ma se qualcuno sorride a te, domani ancora c'è. Cartone di paura. Ben il mostro umano. Paura. Brrr. Notte bianca di spavento, notte nera di terrore, acqua, pioggia, neve, vento. Lampi e tuoni di furore. Rantolo agghiacciante, l'assassino col coltello sguarda e taglia ad ogni istante. Chiunque incontra nel castello, ma dal mondo dell'orrore, come il cielo sempre nero, piomba il figlio del mistero, più veloce del pensiero. Sopra ogni braccio dell'assassino, lui fa un macello, lo pesta sangue con un randello. Dai, dai, dai, arriva il meglio freno. Dai, Stan, dai, Stan. Arriva il grande Vito, scatta. Ma tu ci sei amico, dai, Stan. Arriva il meglio freno. Tesoruccio. E adesso la super sexy Lamu. E adesso ascoltiamo Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana Mana Mana Mana Mana Mana Mana Mana Mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana adesso dedichiamo una canzone a zio Mauro. Thank you. は愛じゃない。愛はそれじゃない。愛しているけど愛されてはいない。決して愛じゃない。決して愛じゃない。 Inconfondibili, inarrestabili, Beavis and Butthead. Dopo Beavis and Butthead, il mio cartone preferito, Downtown. Leave my world behind. Am I party day or night? People started howling, I'm myself a go to see if I can't unwind. So come on down south again, meet some friends of mine. E siccome siamo fan di Cartman, adesso ci sentiamo una sua canzone, Poker Face. I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me, I love it. Look in intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. I wanna roll with him, a hard pair we will be. A little gambling is fun when you're with me, I love it. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. Fun, oh, Coffin Dance. Traduzione Coffin Dance. Una hit del momento, Vergo, con Bomba. Dimostrati per me, segreti nella balea. Non farti indietro, mamma. Siamo dai

la canzone di Gumball. E adesso ci sentiamo la famiglia Adams. Ed è finita qui la nostra puntata di Bimbi dal Basso con Silvia e Giordanino. Saluta tutti, amore. Saluta. Ciao. Ciao. Mamma mia, che paura. Ciao. Ciao a, ciao a tutti le, tutte le bimbe e a tutti i bimbi e anche a tutti... Niente, ma ho chiuso la bocca. Un saluto a tutti, anche da Giordano, gentilmente e carinamente. Ciao, ciao.